Immagini di morte e di rigenerazione. Nel ciclo della vita, la forza femminile, la dea, non si manifesta solo nella nascita, nella fertilità e nel sostentamento della vita. Essa incarna anche la morte, il decadimento e la rigenerazione. In quanto signora della morte, incombeva come un terribile rapace, un serpente velenoso o un corpo nudo e rigido. Per le culture dell'Europa antica, comunque, la morte non preannunciava la fine ultima, ma restava parte di un ciclo naturale. Nell'immaginario religioso, la morte era immediatamente seguita dalla rigenerazione. In effetti, la rigenerazione era considerata un processo continuo e senza tempo, e immagini particolari, soprattutto quelle delle creature acquatiche, ricordavano ai devoti la vicinanza della dea. In questo modo si vede la dea attraversare entrambi i mondi, il terrore illusorio della morte e la soave promessa della nascita, costituendo un filo conduttore tra di essi. Uccelli rapaci. Gli uccelli rapaci o da preda incarnano molto spesso la morte nell'immaginario dell'Europa antica. Il santuario dell'avvoltoio di Cataluyuk ne è un esempio grafico. Le pareti del santuario presentano dipinti di avvoltoi che con le ali spalancate scendono in picchiata su corpi senza testa. A diverse migliaia di chilometri di distanza, nelle tombe megalitiche dell'Europa occidentale, predomina un altro uccello rapace. Qui i devoti incidono su ossi o sulle pietre dei grandiosi monumenti la figura della civetta, in particolare gli occhi. Questo tratto caratteristico lo si può vedere anche sulle pietre erette e isolate note con il nome di menhir. E sia a Kartaluyuk, in Turchia, sia presso i monumenti megalitici, alcuni tratti particolari connettono questi due rapaci con la dea. Alcuni degli avvoltoi di Cataluyuk hanno piedi umani, mentre gli occhi delle civette di pietra megalitica fissano i passanti da sopra una collana con seni umani e compaiono spesso associati a una vulva. Le virtù sovrumane della civetta e le sue sembianze quasi umane, la sua posizione eretta, il suo sguardo mortifero, la sua vista infallibile, i gridi notturni, evocavano in modo particolare mistero e timore. Il fascino legato a quest'uccello deve risalire a prima del Neolitico. La civetta appare sulle pareti delle grotte del Paleolitico superiore. La storia, così come l'iconografia, collega la civetta a importanti divinità femminili come Atena, la dea greca della conoscenza e della saggezza, e Lilith, la dea sumera accadica, il cui nome compare anche nella Bibbia ebraica. Si è supposto che il nome di Lilith significasse allocco di palude. Questo uccello notturno naturalmente presiede la morte e gli inferi. Il simbolismo della civetta nell'Europa antica confonde la morte e la vita. Le rappresentazioni della civetta nelle tombe e nelle statue della Bretagna e dell'Irlanda hanno una vulva nel centro. Anche le urne a forma di civetta nel Nord Egeo esibiscono una vulva oppure spire di serpente. I dolmen portoghesi, insieme con le immagini della dea civetta, contengono oggetti fallici di rigenerazione. L'associazione civetta-serpente si protrasse ripetutamente lungo il Neolitico e l'età del bronzo. Gli occhi della civetta possono essere considerati il più impressionante simbolo di rigenerazione, specialmente quando sono dipinti su semplici ossi, simboli di morte. Un riferimento alle pratiche di scarnificazione può aiutare a chiarire il ruolo degli uccelli da preda nella religione del Neolitico. In particolare, spiega il loro ruolo nel processo della morte. In queste pratiche funebri, i morti non venivano seppelliti immediatamente, ma erano esposti all'aperto su piattaforme, dove gli uccelli rapaci spogliavano il corpo della sua carne, lasciando solo le ossa. La rimozione delle carni era considerata necessaria per completare il processo della morte. Solo quando fossero rimaste solo le ossa, l'individuo poteva essere seppellito e allora poteva avere inizio il successivo segmento del ciclo. Due diverse specie di rapaci predominavano il simbolismo mortuario dell'Europa antica, ciascuna nella sua specifica regione. L'avvoltoio abita solo nel Medio Oriente e nel sud dell'Europa, mentre la civetta vive quasi ovunque in Europa. Nonostante la scarnificazione non fosse universalmente praticata, lungo l'Europa e il Medio Oriente i simboli della civetta e dell'avvoltoio rappresentavano la dea che portava morte e dunque regnava sulla vita e assicurava la nascita. La dea bianca rigida. Le statuette della dea accompagnavano consistentemente le persone nelle tombe, dove la dea giaceva rigida sotto forma di nudo osso che simboleggia la morte. Con gli avambracci piegati sul ventre, essa assume la stessa postura dei cadaveri. A evidenziare l'associazione con la morte, le statuette hanno un pallore scheletrico e sono spesso scolpite nel marmo o nell'alabastro o in altra pietra bianca. Rispetto alle altre statuette, la dea bianca, rigida, possiede piccoli seni, rigettando gli aspetti di nutrimento e sostentamento della vita. In questa forma, la dea accompagna la sua gente nel transito per l'altro mondo. Tra le più celebri rappresentazioni della dea bianca rigida ci sono le statuette delle Cicladi, risalenti a un periodo che va dal 3200 al 2000 a.C., scavate nelle tombe delle isole Cicladi nel mare Egeo. Per le culture dell'Europa antica, il tempo procedeva in cicli, non secondo una linea orientata verso una fine. Questo modo di considerare il mondo era applicato tanto alla vita e alla morte, quanto alla semina e al raccolto. Alla morte seguiva immediatamente la rigenerazione. La dea bianca rigida, in particolare, collegava la morte con la rigenerazione attraverso il suo esagerato triangolo pubico. Le proporzioni delle statuette si concentravano soprattutto sul grembo, il luogo della promessa di rigenerazione dal corpo della dea. Così l'inumazione rappresenta il ritorno simbolico nel corpo della dea, prodromo di un parto nuovo. Le sculture di figure rigide, del Neolitico e di epoche più tarde, rappresentano la dea bianca in una delle sue più importanti immagini, l'uccello rapace o il serpente velenoso. Alcune sculture mostrano maschere senza altri attributi facciali che un grande naso che può stare per il becco di un uccello. In alcune zone, per esempio in Irlanda, la dea della morte compare come una signora bianca nelle vesti di un rapace. In altre, particolarmente nell'Europa orientale, si presenta come un serpente velenoso. Simboli specifici della rigenerazione. La dea rana. La valenza significante del pesce e della rana nel simbolismo rigenerativo deriva dal loro ambiente acquatico. L'habitat di questi esseri costituiva un'analogia con il liquido amniotico, quel regno acqueo uterino dove ha luogo la rigenerazione. La comparsa annuale, in primavera, della rana e del rospo e la loro stretta rassomiglianza con il feto umano enfatizza ulteriormente le loro associazioni con la rigenerazione. L'arte neolitica ha modellato migliaia di ibridi donna rana. In molti siti neolitici, gli artigiani scolpivano piccole dee a forma di rana su pietra verde o nera e le ponevano in rilievo sui vasi o sulle pareti dei templi. La presenza della vulva divina accentua la forza rigenerativa di queste immagini. Il volto della dea emerge da un segno M rappresentante una rana o un grafema a gambe di rana. Questi grafemi significano che i vasi dell'acqua erano sacri alla dea sorgente della vita e rigeneratrice. I meandri e le serie di spirali rafforzano la deduzione che significasse acqua. Le ceramiche del Neolitico spesso accennano a rane stilizzate. Stilizzata in geroglifico, la rana o il rospo diventa una M. L'immagine della rana e del rospo, insieme con la donna a forma di rana che mostra la vulva, si diffonde lungo un ampio arco di tempo e non solo nel Neolitico europeo e anatolico, ma anche in Medio Oriente, in Cina e nelle Americhe. Diverse immagini di divinità strettamente collegate con la rana in Egitto e in Medio Oriente aiutano a spiegare la funzione di questa dea. Gli Egizi Veneravano la rana come Heket, madre primordiale di ogni esistenza. Nel primo periodo predinastico, intorno al 3100 a.C., essa veniva rappresentata come una donna con la testa di rana, oppure come una rana o un rospo che impersonava la dea. Il suo geroglifico era appunto rana. Heket presiedeva la fecondità e la rigenerazione post-mortem. Il suo corrispettivo greco è Baubo, probabilmente una balia, mentre quello sumerico è Bau, nota anche come Baba. Bau era la dea sumera della medicina e della salute. Baubo è la dea che mostra la vulva. Le origini di Baubo risalgono a prima dei documenti egiziani. La Sheila na Gig veniva incorporata e venerata nelle chiese medievali d'Irlanda e Inghilterra. Sheila na Gig, con i suoi occhi rotondi e la grande vulva, non è altro che l'antica dea rana o dea rospo, colei che presiede alla nascita e alla rigenerazione. La concezione di questa immagine può essere ricondotta addirittura al Paleolitico superiore, dal momento che ossi con incise donne rana compaiono già nell'era magdaleniana. Anche la prova linguistica corrobora l'origine europea di Baubo. Alcune lingue europee presentano la radice bau o bo nei nomi di rospi, streghe e funghi. In Lituania, Baubas e Bauba sono nomi di una strega terribile o di un mostro. Io penso che questi termini riflettano i nomi della dea della morte e della rigenerazione, prima che fosse trasformata in un demone come Baba Yaga. La dinamica persistenza della dea Rospo fornisce la spiegazione a un'immagine di epoca storica affatto misteriosa. L'impudica Sheila na Gig, che compare su edifici in pietra in Inghilterra, Francia, Irlanda e Galles, seduta nuda con le gambe di rana spalancate e con le mani sulla vulva. Queste figure furono scolpite su castelli e chiese tra il XII e il XVI secolo. Le si possono vedere di solito sulle arcate d'ingresso o sulle pareti delle chiese. Entrambe le mani della Sheila na Gig indicano la zona genitale o ne tengono divaricate le labbra. Alcune sculture presentano volti spaventosi o anche teschi di scheletro. La Sheila na Gig è ancora molto venerata, ma la sua presenza, è ovvio, è avvolta nel mistero. Non può che essere la discendente dell'antica dea rana, la grande rigeneratrice. Molte immagini di rane e rospi e molte credenze su questo genere di animali perdurano lungo l'età del bronzo e del ferro nel folklore e nell'arte europei. Il pesce e la dea pesce. Un'altra creatura chiaramente omologa all'utero e associata al simbolismo acquatico è il pesce. Le sue raffigurazioni si diffondono lungo il Paleolitico e il Neolitico dell'antica Europa, del Medio Oriente e nell'Egeo dell'età del bronzo, fino all'epoca della Grecia classica. Nel Paleolitico superiore e nel Neolitico, le sagome di pesce dipinte e scolpite erano contrassegnate con un disegno a rete che, essendo quest'ultima utilizzata per catturare i pesci nell'acqua, diviene simbolo di umidità. Si può vedere con estrema chiarezza che il pesce rappresenta l'utero della dea della vita, per esempio in dipinti vasali che ritraggono pesci con il corpo della dea. Le immagini del pesce ricorrono nei templi e nelle tombe. A Abu Jibba, un tempio maltese, gli archeologi trovarono un pesce scolpito su un altare di pietra, mentre nell'Ipogeo, il tempio sotterraneo di Malta, fu scolpito un pesce in rilievo sopra un giaciglio. Le sculture di Lepen Skivir non solo mettono insieme diversi simboli rigenerativi, uovo, pesce o donna, pesce e corsi d'acqua, ma fondono una nuova immagine utilizzando il pesce e la dea della morte e della rigenerazione, mettendone in evidenza i seni, la vulva e gli artigli di un uccello rapace. Il cane, o il doppio della dea della morte e della rigenerazione. Nelle mitologie europee, il cane accompagna spesso la dea della morte e della rigenerazione, tanto da fungere da suo doppio. La greca Ecate, la Holle o Hel dei Germani, la Giltine Baltica e altre. La maggior parte delle immagini del cane nella scultura e nella pittura neolitica sembrano provare un ruolo analogo nella preistoria. Scheletri interi di cani furono trovati nei pressi degli altari dei santuari di Lepenskivir. Si può percepire al meglio il ruolo del cane nel simbolismo rigenerativo nei dipinti vasali di Cucuteni, in Romania, risalenti al 4000 a.C. Qui cani ritratti su grandi vasi a pera saltano leggeri e abbaiano alla luna. In molte composizioni sono affiancati da un albero della vita, un bruco o una luna piena o crescente, tutti poderosi simboli di rigenerazione. Il cane che ulula o che latra evidentemente svolgeva un ruolo simbolico nello stimolare la rigenerazione e nel prestare soccorso al processo di crescita. La capra. La vitalità storica e preistorica della capra è ben espressa dalle molte illustrazioni di capre saltellanti accanto a piante in germoglio. In alcune immagini addirittura i rami spuntano direttamente dal corpo delle capre. In una scena tratta da una spilla minoica ci sono capre che copulano. Il potere sessuale dell'ariete rappresentava la grande forza stimolante per rinnovare la vita. L'alleanza simbolica della capra con l'albero della vita, le piante e la luna, simboli associati anche al cane, rivela che entrambi svolgevano ruoli connessi nelle metafore della rigenerazione. Bucranio e corna di toro. Nel Neolitico il toro impersonava la rigenerazione, mentre nella religione patriarcale il toro è simbolo di potere fisico e mascolinità. Le mitologie indoeuropee fanno significativamente del toro una delle raffigurazioni animali del dio del tuono, ma la chiave corretta per una corretta interpretazione della figura neolitica della testa e delle corna del toro, note in letteratura archeologica con il termine bucranio, è l'analogia con il grembo femminile e le tube di Fallopio. Nei templi di Kartaloyuk, in Turchia, su una serie di figure femminili, sono stati in effetti dipinti dei bucrani all'altezza dell'utero e delle tube. L'analogia acquista ancora più significato se si considera che le rosette, spesso identificate con le corna del toro, corrispondono alle forme floreali con cui terminano le tube di Fallopio. I bucrani compaiono spesso in associazione con le tombe e il grembo della dea. In particolare, i siti dove compaiono i bucrani comprovano la connessione con la dea della rigenerazione. Troviamo bucrani soprattutto nei templi della rigenerazione dell'antica Europa e dell'Anatolia, come Parta e Kartaloyuk e molti altri. Culture antiche europee che inoltre situavano questa immagine nei pressi di tombe, in particolare nelle tombe megalitiche con esposta la dea civetta. Si tratta di una dea che incombe, come una statua menhir, presso le entrate di alcune tombe megalitiche nella Francia meridionale e indossa un pendant a forma di bucranio. Questo simbolo di vitalità probabilmente funzionava come una sorta di rinforzo della potenza della dea Gufo in quanto dea della rigenerazione. In Bretagna, i megaliti presentano rozze sculture antropomorfe con delle protuberanze sulla testa. Probabili rappresentazioni schematiche della medesima dea funebre della rigenerazione. Questi profili compaiono anche con bucrani, corni e uncini. La forma a U, che termina uncino o a coppia di uncini, molto diffusa all'interno delle pareti tombali della Bretagna e altrove, riproducono probabilmente bucrani o corna. Forse la loro diffusa riproduzione nelle sculture e nelle incisioni era necessaria per evocare o assicurarsi i poteri della vita. Le culture dell'antica Europa scolpivano bucrani o corni sacri sopra o in parte alle entrate delle tombe sotterranee. Gli ipogei sardi, detti tombe dei giganti o domus dei Janas, forniscono in questo senso migliaia di esempi. Teste o corna compaiono in rilievo, alcune anche a grandezza naturale, ma la maggior parte in forme stilizzate. Nell'arte antica europea, l'energia simbolica della vita, risalendo dalla testa o dalle sacre corna della vacca o del toro, rappresenta la nuova vita rinata o la dea stessa che assume una gran varietà di forme. Un triangolo doppio, clessidra, una combinazione essere umano-ape, una farfalla con testa umana coronata o semplicemente una pianta. Triangolo e triangolo doppio, clessidra. Il triangolo, che rappresenta il triangolo pubico, fu un simbolo vitale e rigenerativo per tutta la preistoria e fino all'epoca moderna. Varianti di questo simbolo sono rintracciabili perfino nel basso paleolitico, nel 300.000 a.C. circa, fino alla modernità delle rappresentazioni triangolari della Vergine Maria e della Trinità cristiana. Figure a clessidra raffigurano a loro volta la medesima formidabile dea della rigenerazione, quando non le sue vergini che eseguono danze ad anello o riti rigenerativi. Alcune associazioni e gestualità fanno pensare a rituali rigenerativi, tipici essenzialmente del periodo invernale. La dea, sotto forma di uccello rapace, spesso si tocca la testa con un braccio, mentre l'altro braccio è posato sulla cintola. Figure di questo tipo sono vestite con una tunica sfrangiata, un simbolo a spazzola, da connettere con il simbolo dei raggi solari, che è un potente indicatore di energia. La dea germanica del sole, per esempio, nota attraverso le rune, compare con la testa rotonda e il corpo a forma di pettine o con la tunica sfrangiata che rappresenta l'energia. In tal senso, la dea arreca rigenerazione sia sul piano cosmico sia sul piano individuale, nella misura in cui cagiona il transito di un individuo dalla morte alla rinascita, essa cagiona anche la rinascita della vita tutta. Questa molteplicità di simboli di cui si è parlato fin qui, germoglio, ramo, sole, capelli, spirale, rapace, clessidra, zampa d'uccello e triangolo, rappresenta la dea della rigenerazione nel suo aspetto più calendariale, perché allora stabilita sulla soglia della nuova primavera, essa rigenera tutta la vita delle piante e degli animali. In alcune rappresentazioni dipinte o incise su ceramica trovate tra la Sardegna e l'Ucraina, a partire dal IV millennio a.C., le figure della dea triangolare avevano infatti germogli, rami e soli sulla testa. Talvolta la testa rotonda della dea irradia come un sole. Dalla cultura Ozieri in Sardegna, alcune figure triangolari hanno teste che sembrano soli irradianti, oppure enormi acconciature. Forse un prototipo dei capelli serpente della Gorgone. Queste immagini hanno anche zampe d'uccello, raggi solari, spazzola e capelli in combinazione con l'iconografia ornitologica, probabilmente intercambiabile. Capitolo 3. Il grembo e la tomba. I monumenti funebri dell'Europa antica offrono un'inestimabile quantità di informazioni in quanto a manufatti, simboli e contesti, necessari per esplorare il concetto neolitico di morte e di passaggio. Tombe e sepolture facevano mostra di una gran varietà di forme e disegni, e oltretutto in zone diverse d'Europa si registra una radicale somiglianza tra le credenze religiose espresse da questi segni. Monumenti di questo tipo mostrano come il modo di intendere la morte e il trapasso da parte degli abitanti dell'Europa antica fosse fondamentalmente diverso rispetto a quello di molte culture successive. Nelle religioni arcaiche degli indoeuropei, come anche nel cristianesimo, l'anima individuale manteneva la sua identità e viaggiava verso la terra dell'aldilà. Nella religione neolitica, invece, i processi della morte e del trapasso erano ciclici. Come nel mondo naturale, in cui la nuova vita cresce sui resti di quella vecchia, la nascita, secondo gli antichi europei, era parte di un ciclo che comprendeva la morte. L'utero della dea, fonte della nascita, è allo stesso modo scaturigine di morte. In senso simbolico, l'individuo ritornava nel grembo della dea per rinascere. Non si conosce esattamente la forma che si immaginava assumesse questa rinascita. Ciò che è chiaro è che la religione dell'antica Europa comprendeva la vita e la morte come parti di un più grande processo ciclico. Poiché il grembo femminile in questa era costituisce uno dei più potenti motivi funerari, si può pensare al grembo come tomba, Tomb as Womb. Le immagini della vulva e dell'utero sono predominanti, sia in riproduzioni realistiche sia stilizzate. Nell'Europa antica, alcune costruzioni servivano sia da tombe sia da santuari e avevano la forma di un corpo femminile. I più antichi santuari di Lepenskivir, risalenti al 6500 a.C. circa, rappresentavano la dea in forma stilizzata, un triangolo sacro. Molte tombe avevano un corridoio centrale, probabilmente l'evocazione del canale del parto. Nelle culture dell'Europa antica, le tombe rappresentavano la dea della rigenerazione, la dea il cui grembo, il cui canale del parto, era la soglia della rinascita. I santuari triangolari di Lepenskivir. La regione delle porte di ferro tra Serbia e Romania suscita nei visitatori un senso di timore ancestrale. Conosciuta anche come Gola del Danubio, si trova nella zona in cui il Danubio scava un profondo canyon tra i Carpazi nella sua inarrestabile corsa verso oriente, il Mar Nero. Lungo questo tratto, il Danubio è agitato da numerosi e insidiosi mulinelli. Non sorprende che le popolazioni preistoriche avessero scelto questo territorio perturbante per erigere i santuari dedicati al mistero estremo, la rigenerazione della vita dalla morte. Lungo l'argine fluviale di Lepenskivir, gli archeologi trovarono i resti di più di 50 piccole costruzioni edificate lungo un arco di tempo di un intero millennio. Risalgono infatti dalla metà del VII alla metà del VI millennio a.C. Ovviamente i pali di legno che in origine tenevano in piedi la struttura sono scomparsi da tempo, ma i pavimenti, fatti di una miscela di calcare rosso e di argilla, rimasero duri come la roccia e sono sopravvissuti a millenni di inondazioni del Danubio. Le costruzioni erano piuttosto piccole, lunghe da 5 a 7 metri, e la pianta del pavimento non era né quadrata né tonda, sembravano piuttosto triangoli con il vertice tronco. Le ricostruzioni fanno pensare che avessero un'apertura all'altezza del vertice mancante che dava sempre verso il Danubio. Le strutture erano sparse un po' ovunque, lungo l'argine del fiume, e cingevano uno spazio vuoto nel mezzo. Gli scheletri rinvenuti sotto o nei pressi di queste costruzioni fanno pensare a scopi rituali. Le dimensioni ridotte fanno pensare che non si trattasse di abitazioni, bensì di riti di morte e rigenerazione. La forma triangolare delle costruzioni sarebbe inusuale per delle dimore, ma non per delle strutture rituali. Il triangolo è simbolo della regione pubica sacra della dea rigenerativa, mentre le grandi quantità di calcare rosso sul pavimento riproduce il sangue della vita, il sangue mestruale della dea. Queste costruzioni sembrano rispecchiare simbolicamente il sistema riproduttivo femminile. Ogni struttura aveva un altare costruito direttamente sul terreno. Nella parte centrale c'era una fossa che collegava i due vertici, quello superiore, che dava sul fiume, e quello inferiore, dal lato opposto, a rappresentare probabilmente il canale del parto, posizionato all'interno del triangolo rigenerativo della costruzione. Molte di queste strutture contenevano una o due sculture in pietra, altre all'incirca dai 50 ai 60 centimetri, proprio in cima all'altare. Queste pietre, per la loro forma, rimandavano esplicitamente a un valore simbolico nei confronti della morte e della rigenerazione. Innanzitutto, molte pietre erano scelte per la loro forma simile a quella di un uovo o di un pesce. Oltre all'ovvia implicazione che un uovo di uccello o di pesce costituisce la sorgente di una nuova vita, l'uovo significa anche il grembo materno. Molte sculture erano colorate con l'ocra rossa che connotava il sangue e dunque l'essenza della vita. La pianta triangolare del santuario, come rappresentazione del triangolo rigenerativo della dea, l'altare che raffigura il canale della nascita, le pietre a forma di uovo o di grembo che riproducono l'utero all'estremità del canale del parto, tutti questi elementi forniscono una chiara rappresentazione degli organi rigenerativi della dea. Alcune delle sculture di pietra furono incise con segni a labirinto o con motivi geometrici che fanno pensare allo scorrere dell'acqua. Sono simboli che compaiono anche in altre zone nell'arte dell'antica Europa. Alcune sculture mostrano una vulva incisa, ma soprattutto molte sculture fondono le caratteristiche della donna, del pesce e dell'uccello rapace. Alcune sculture sembrano divinità con muso di pesce, con seni e vulva umani, ma con zampe d'uccello. Questa combinazione di simboli, femmina umana, pesce, uccello, rapace, il tutto inciso su una pietra a forma di uovo, agglomera in modo singolare i simboli della rigenerazione. Scheletri disseppelliti in questi resti di abitazioni o di costruzioni sono stati trovati con le ossa disarticolate, che spesso indicano che l'inumazione avveniva in seguito alla scarnificazione. Ovvero prima il corpo del defunto veniva esposto all'aperto affinché gli agenti naturali e gli uccelli rapaci ne consumassero le carni e in seguito venivano seppellite le sue ossa. I popoli di quella zona portavano i propri morti presso i luoghi sacri come le Peenskivir e altri lungo le gole del Danubio per celebrare riti di sepoltura e di rigenerazione. Molto probabilmente gli abitanti della zona lasciavano i loro morti al di fuori dei santuari per la scarnificazione. In effetti, in questi punti sono stati trovati ossi di aquile, gufi, corvi, pellicani e gazze. Quando gli elementi e gli uccelli avessero terminato di scarnificare le ossa, solo a quel punto i resti venivano seppelliti all'interno dei santuari.